piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Polemiche infuocate e stupore negli Stati Uniti per l'ultimo atto del presidente Trump, questa volta in materia di sanità. Trump ha proibito l'uso di una serie di parole e di intere frasi. Dai documenti scientifici dovranno essere banditi i termini vulnerabile, diritto, diversità, transessuale, feto, basato sulle evidenze. L'elenco è riportato da tutti i maggiori organi di informazione degli Stati Uniti. La Casa Bianca, per alcune di queste parole, ha fornito in sostituzione delle alternative. Basato sulla scienza, ad esempio, dovrà diventare basate sulla scienza in considerazione degli standard e dei desideri della comunità, con enorme difficoltà per chi ogni giorno si occupa delle malattie a trasmissione sessuale o legate alla riproduzione. Trump è accusato di voler sottomettere la scienza a questioni di opportunità politica e di voler così frenare il dibattito su questioni di bioetica e di diritti civili. Sta di fatto che le cose stanno così. Noi, con il punto di vista totalmente asettico del laico osservatore, pensiamo subito che sia il caso di adattarci a questa nuova possibile tendenza e quindi di sottoporre il nostro pubblico a un sondaggio. Casomai avvenisse che anche in Italia ci fosse questa sorta di lista dei termini proibiti riguardo il campo della sanità. Ma prima di sottoporvi il consueto test, che voi sarete già pronti a sostenere dando un importantissimo contributo all'umanità con la vostra testimonianza, già potendo prevenire quello che sarà comunque il trend dominante anche nel nostro paese rispetto a queste problematiche, pongo una domanda a un esperto del settore che è stato chiamato appositamente in studio a darci il suo parere, che è il professor Giuseppe Neri. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Neuropsichiatra, past president Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Dal punto di vista proprio dello scienziato, cosa cambierebbe se queste norme del presidente Trump poi avessero un'applicazione reale, concreta, se la comunità scientifica poi non dicesse nulla e da oggi cominciassero veramente a non usare più la parola basato sulla scienza, evidenza scientifica, che è la base oggi di ogni dibattito, di ogni polemica, le battaglie che si fanno, da una parte gli stregoni, gli sciamani, i somministratori di tisane e salvavita, dall'altra parte gli scienziati, il discrimine è evidenza scientifica, non vale più l'evidenza scientifica? Allora, noi abbiamo fatto una lunga battaglia perché quelle che sono le prove di efficacia, che è la traduzione corretta di evidence based, fossero alla base della pratica clinica. Nel nostro paese penso di poter dire che nessuno si sognerebbe di dire all'Istituto Superiore di Sanità di emettere dei documenti modificando alcuni termini che sono patrimonio della comunità scientifica internazionale. Mi risulta che anche negli Stati Uniti il Center for Disease Control di Atlanta abbia posto delle obiezioni. In ogni caso, nel nostro paese, penso soltanto alla devastante polemica sulle castronerie circa i vaccini e altre cose, se alcuni criteri precisi, documentabili, verificabili e condivisi dalla comunità scientifica venissero messi in discussione sulla base di quello che è, come dicevi prima, il parere predominante nella comunità in quel momento, andremo veramente verso una deriva di una pericolosità, a mio giudizio, inaudita. Ti faccio un esempio a estremo. Abbiamo sentito parlare delle cose più assurde in questi giorni e ne abbiamo noi trattato in questa trasmissione. Le mamme che non si vogliono far tagliare il cordone ombelicale e si fanno marcire la placenta addosso per non interrompere l'aura del feto, ah non si può dire, scusate, della creatura umana che sta attaccato col cordone ombelicale. Persone che dicono di guarire il cancro con la limonata e il bicarbonato tutte le mattine, stregoni che impongono le mani e guariscono a tutti i mali, gente che si beve litrate la propria pipì e quindi si guarisce il cancro. Tutti questi avrebbero pieno diritto, allo stesso livello di uno scienziato, di esprimersi. Se passasse una linea tipo quella Trump, i presidi, gli strumenti, gli argini a una delimitazione definita di quella che è la scienza condivisa dalla comunità internazionale, non da uno o un altro pensatore, sarebbero dei limiti messi in discussione, e questo farebbe dei danni devastanti non soltanto alla comunità scientifica ma alla qualità della vita del nostro paese. Benissimo, noi a questo punto sottoponiamo al nostro pubblico quello che in realtà viene dato loro in mano per decidere, amministrare e stabilire cosa debba essere o possa essere detto sulla loro sensibilità, sui loro standard e sui loro desideri, al posto del termine evidenza scientifica o basato sulla scienza. L'amministrazione Trump ha proibito alla massima autorità sanitaria statunitense, il Center for Disease Control and Prevention, l'uso di una serie di parole e frasi. Dai documenti dovranno essere banditi i termini vulnerabile, diritto, diversità, transessuale, feto, basato sulle evidenze, basato sulla scienza. Invece di basate sulla scienza, è stato consigliato di usare basate sulla scienza in considerazione degli standard e dei desideri della comunità. Prepariamoci anche noi italiani a cancellare l'autoritario concetto basato sulla scienza e sostituirlo secondo i nostri standard e desideri. Chiamate all'800 24 0024 e diteci cosa suggerite al posto di basato sulla scienza. 1. Basato sul diritto di scelta individuale. 2. Basato sull'opinione della maggioranza dei cittadini. 3. Basato sulla parola di Dio. 4. Basato sui rimedi naturali. 800 24 0024. Faccio una, se possibile, se utile e indispensabile, precisazione. Questa volta non ha il senso un po' scherzoso e canzonatorio dei sondaggi che facciamo spesso. Gli stessi 15 sondaggisti che ogni volta ci supportano hanno consapevolezza di avere un compito molto delicato. Guardate, sono serio e vi richiedo serietà. Se il termine basato sulla scienza, che è il termine che in realtà ha dato la possibilità di civilizzarsi all'uomo dal suo stato abbrutito, arcaico, superstizioso, e permette che io possa parlare a questo microfono e voi mi possiate ascoltare, che sia illuminato da una corrente, da una lampadina alimentata da corrente elettrica, e che abbia possibilità di curarmi e farmi degli esami clinici e quindi prevenire quelle che sono eventuali patologie, che salvi la vita a molte altre persone, miei cari amici, parenti, che si sono salvati perché dei medici sono intervenuti nel momento giusto, in maniera giusta. Ecco, se tutto questo deve essere messo in discussione, e questo si chiama scienza, perché tutto questo è basato sull'evidenza scientifica, quali possono essere le alternative se deve essere basato sugli standard e desideri della comunità? Le ripeto, ma non c'è nessun senso denigratorio o canzonatorio, ma sono queste le ipotesi. 1. Basato sul diritto di scelta individuale. Molti me lo dicono. Le famiglie hanno diritto di scegliere sui vaccini. Benissimo, potrebbe essere uno. Votate uno. 2. Basato sull'opinione della maggioranza dei cittadini. La gente dice che. Va bene, numero 2. 3. Basato sulla parola di Dio. Dio dice questo, la religione dice questo, la tradizione religiosa dice questo, per molti questo può essere importante. Basato sui rimedi naturali. La seconda alternativa è quella della medicina alternativa, la medicina buona, la medicina dolce. Ecco, è uno di questi quattro punti. Uno di questi quattro punti deve essere quello che voi dovete votare per capire quale sarà il concetto che in qualche maniera definisce lo standard e il desiderio del medio cittadino italiano. Livio, buongiorno. Livio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Qual è il suo punto? Prima dica, prima il voto. Voto. Il punto per me è il 3. Parola di Dio, parola di Dio. Io mi chiamo Livio Padre e Livio Padre dice che è tutta roba del demonio quello che viene manifestato con quelle parolacce. E fa bene il biondino americano a tagliare tutte queste parolacce, perché è la voce di Dio. Non so se mi spiego. No, aspetti un attimo. Siamo Livio Padre. Sì, sì, Livio, Livio. Lei quanti anni ha, Livio? Erba. Quanti anni ha, Livio? Io ho quasi 70 anni. Ecco, se lei ha un'occlusione intestinale, cosa fa? Si mette a pregare o va da un medico? No, vado in Giugorie, vado subito in Giugorie. Ah, perfetto, sicuramente, la stappa sicuramente, la Madonna non aspetta altro. Ma quello è fuori discussione. Ma se lei ha un problema cardiaco? Sempre in Giugorie. Va bene, a me Giugorie. Livio, allora lei vota per il numero 3, Livio, sono d'accordo. Certamente, viva Trump! Sì, ma... Vi saluto Nicoletti, ciao. Sì, vabbè, io rispetto tutte le opinioni, è un'opinione rappresentata dal nostro pubblico. Il primo che ha telefonato ha espresso appunto il punto 3, parola di Dio, cioè c'è una legge divina che in realtà è sopra la legge determinata dall'evidenza scientifica. Giuseppe Neri, adesso parte tutto, non so nemmeno se l'ascoltatore fosse serio o meno, però è diciamo osservate in alcuni campi molto delicati della medicina, in realtà qualche medico questo dice. Qualche medico dice cosa? Andare a Medjugorje? No, andare a Medjugorje no, che comunque esiste una sorta di obiezione di coscienza o capacità comunque di... È un dibattito abbastanza alto, secondo te, ho frequentato? Non lo so, guarda, io quando sento parlare di obiezione di coscienza penso ai 30 anni del nostro paese per alcuni temi specifici che qui salto. Penso soltanto alla legge che è passata pochi giorni fa in Parlamento che, per esempio, sulle disposizioni anticipate testamentarie, questa storia del cosiddetto obiezione di coscienza la ridimensiona molto, perché valorizza invece la libertà dell'individuo e la scelta del singolo cittadino di questo paese, come altrove in Europa, di lasciare delle disposizioni anticipate. Oh, mentre su alcuni di questi termini posso anche spiegarmelo, perché sono legati a dibattiti in cui comunque il senso etico, il punto di vista confessionale incide molto, diversità, transessuale, feto, ma ad esempio sul termine vulnerabile, sul termine diritto, sul termine basato sulle evidenze, dov'è l'oggetto del contendere? Guarda, io sono andato a vedere sul Washington Post il testo originale. Allora, diritto è entitlement, che in inglese vuol dire avere diritto a. E nel nostro paese vuol dire ho diritto all'esenzione, ho diritto all'assistenza domiciliare, ho diritto a non pagare il ticket, ho diritto ad avere una serie di benefici perché mio figlio è invalido, perché io sono invalido. Allora, questa cultura della protezione del diverso o di quello che ha dei problemi, probabilmente nell'America di Trump è una cultura marginale che va ridimensionata. Questo è importante, abbiamo definito, se no sembra soltanto che si parli in termini lo vuole Dio, Dio non lo vuole, oppure difendiamo quello che è l'ordine naturale delle cose. Qua significa molto chiaramente che una certa attenzione verso le categorie deboli, più fragili della società dovrebbe finire. Infatti anche la parola fragilità, vulnerabilità viene abbandonata. Vulnerabilità è questo, Quindi una categoria vulnerabile non deve essere più usata, non è più una salvaguardia. L'amministrazione Trump ha proibito alla massima autorità sanitaria statunitense, il Center for Disease Control and Prevention, l'uso di una serie di parole e frasi. Dai documenti dovranno essere banditi i termini vulnerabile, diritto, diversità, transessuale, feto, basato sulle evidenze, basato sulla scienza. Invece di basate sulla scienza, è stato consigliato di usare basate sulla scienza in considerazione degli standard e dei desideri della comunità. Prepariamoci anche noi italiani a cancellare l'autoritario concetto basato sulla scienza e sostituirlo secondo i nostri standard e desideri. Chiamate all'800240024 e diteci cosa suggerite al posto di basato sulla scienza. 1. Basato sul diritto di scelta individuale. 2. Basato sull'opinione della maggioranza dei cittadini. 3. Basato sulla parola di Dio. 4. Basato sui rimedi naturali. 800240024, ricordo i tanti che mi stanno scrivendo rispetto a telefonata dell'ascoltatrice. Prima si diceva indignata del fatto che facciamo questo sondaggio, che noi abbiamo comunque in studio uno scienziato, Giuseppe Neri, neuropsichiatra, past president Società Italiana Neurologi Ospedalieri, che rappresenta la scienza. Il tema è palesemente neutrale, quello che noi poniamo, non ci poniamo come giudici nessuno, vogliamo sapere se mai aveste possibilità di decidere secondo i vostri standard e desideri come sostituireste la parola basate sulla scienza. Nicola, buongiorno. Salve, buongiorno Nicoletti. Quale allora, sceglierebbe lei? Ma io sceglierei assolutamente la prima, cioè basata sul diritto di scelta individuale. Sì. Che su temi diciamo così importanti, certo è vero che è questo tipo di, come dire, di scelta è un pochettino, come dire, generale su temi che andrebbero trattati diciamo in maniera specifica uno per uno, però diciamo tra le opzioni secondo me è giusta questa. Quindi lei, diciamo, anche non essendo medico e scienziato, immagino di fronte a una scelta, da una parte basandosi su quella che è l'evidenza del dato scientifico, lei riesce a scegliere secondo una sua personale opinione. Questo mi sembra chiaro, mi sembra logico. E quindi di fronte a una diagnosi, ad esempio, uno gli dice guarda, hai questo problema, devi fare questo tipo di terapia. Lei si riserva il fatto di scegliere lei qual è la terapia? Sì, sì, assolutamente, nel senso che ci sono altre terapie, dico, condivisibili o meno, però dico, andrebbero sicuramente studiate meglio. Guardi, io per esperienza personale le dico che molte terapie che offre la medicina, diciamo, tra virgolette ufficiale, quelle delle strutture ospedaliere, in molti casi non sono risolutive, ce n'è tante altre. Ne cito una per tutte, tipo quella del metodo di Bella, che è da anni che io seguo con effetti personali ottimi, che è stata bandita con un finto o fatto male sperimentazione negli finto. Anni. Finto, Nicola, che sta di finto? Passiamo, Beppe Neri, scusa, rispondi te che sei medico a Nicola. No, non penso che esista, in queste circostanze bisogna stabilire un canale di comunicazione condiviso. Quello infatti penso anch'io. Temo che questo sia quello che manchi. Quindi questo signore è convinto così, resta la sua convinzione. Noi siamo convinti che conti l'evidenza scientifica. Gli scienziati hanno detto che quel metodo non aveva efficacia. Funzionerà forse per il signor Nicola, ma non è riproducibile con un sistema che viene considerato scientifico. Lorenzo, eccomi. Lei quale grazie mille per il programma, lo adoro. E, no, io sono anch'io per il primo, cioè individuale, individuale. Certo, perché, ma è già così, purtroppo è già così. Io mi scanno su internet da mesi per la storia dei vaccini, ma è già così, la gente ormai sceglie non in base agli anni di studio o di pratica medica, la gente sceglie in base ai minuti che ha a disposizione per poter andare su internet e farsi un'informazione, perché ora va di moda informarsi, no? Ci si informa così superficialmente. Quindi in realtà l'amministrazione Trump non fa altro che fotografare una situazione di fatto. Anche perché l'amministrazione statale promette, ma poi dopo è tutto da vedere quali saranno le sanzioni. Quindi questo evita ogni sanzione, perché se il desiderio della comunità dice oggi chiamiamo Mamma Ebe e Mamma Ebe ci curi tutti, ben venga Mamma Ebe a questo punto. Ovviamente la scelta dell'amministrazione Trump è assurda, però diciamo che come provocatoriamente, come soluzione, è già quella, è la libera scelta, la gente chiaro, sceglie. È chiaro, veramente. È chiaro. Fabio, sentiamo Fabio. Fabio, quale categoria? Sì, salve, buongiorno sì. Nicoletti. Guardi, io sceglierei la 4 perché secondo me i rimedi naturali perlomeno hanno un minimo di, non so come dire, tramandano di famiglia, il rimedio della nonna, il cosiddetto rimedio della nonna. Esatto. Quindi se un dottore, facendo i debiti scongiuri, le diagnostica una malattia molto grave, invasiva, dice di cominciare a fare un trattamento specifico, dice no, io prendo l'acqua col bicarbonato e la limonata perché mia nonna usava questa. Bah, comunque io penso che, non lo so, non saprei, comunque sicuramente andrei su rimedi, diciamo, naturali. Perché secondo me un minimo, io ho premesso il fatto che vabbè si sa, però ho capito l'argomento, diciamo, della situazione, penso di averlo capito. Ma comunque non si trova scandalizzato da questo tipo di idea, dice per me i rimedi naturali vanno bene. Allora Beppe Neri, prima valutazione a queste telefonate, vediamo un po'. No, io penso che, come dicevamo una volta in una conversazione, questo sia l'equivalente di due passeggeri che stanno salendo su un volo da Roma a New York e dicono la gente ha diritto di sapere, quindi io non salgo, non so se il comandante usa dei reattori Pratt & Whitney o General Electric, perché su internet ho letto che i reattori General Electric hanno delle caratteristiche di inversione di flusso nel momento in cui c'è l'atterraggio che potrebbero dare problemi. Quindi finché il capitano non mi spiega gli inversori di flusso dei reattori Pratt & Whitney, io non penso di poter volare, quindi vado in nave con un altro momento di trasporto. Tu, in quanto neuropsichiatra, i tuoi colleghi americani un anno fa probabilmente hanno dato, senza dare a questo una valenza politica o propagandistica, visto che era in tempi in cui ancora Trump non era presidente degli Stati Uniti, hanno dato una valutazione, hanno scritto una lettera dicendo secondo noi Trump c'ha qualche problema. Ma ha un fondamento scientifico questo tipo di documento? Ce lo spieghi, me lo illustri. Allora, io quello che ho letto anche sulle riviste mediche, che è stato pubblicato sulla rivista della società americana, l'American Psychiatric Association, è che questi avevano mandato due colleghi di Harvard, tra l'altro uno di San Francisco, una lettera a Obama dicendo: premesso che dal punto di vista deontologico non possiamo fare diagnosi non avendo il paziente davanti, ma esistono una serie di manifestazioni pubbliche ripetute in circostanze pubbliche in cui è manifesto a qualsiasi osservatore minimamente accorto che il candidato, anzi il presidente neoeletto da novembre, ha un disturbo di personalità importante di tipo narcisistico con un io grandioso. Questo, essendo caratterizzato da alcune caratteristiche fondamentali, cioè io sono convinto di essere il migliore, il più bravo, il più competente, il più capace, non tollero nessun dissenso, non sono disponibile a confrontarmi con nessuno perché ho già tutta la verità in tasca e soprattutto io non ho nessuna disponibilità a essere in empatia con chi mi sta intorno perché ho solo bisogno di verifiche, conferme e sottolineature del fatto che io sono nel giusto. Loro dicevano una personalità di questo tipo messo come chief commander, quello che ha i codici per gli attacchi nucleari e per una serie di decisioni in cui non è prevista dalla Costituzione degli Stati Uniti un team che decide, ma c'è un uomo solo al comando, a nostro giudizio può costituire una preoccupazione. Quindi è una persona, comunque, al di là di tutte le valutazioni, perché non ha nessun valore scientifico, certo, perché certo, l'avevano detto, poi è stato fatto, era già stato eletto, quindi appena eletto, quindi è una valutazione che non incideva sul voto degli americani. Comunque una persona che, se lui ha una convinzione, è convinto di una cosa, quindi una cosa l'applica. Quindi questa esprime profondamente una convinzione personale, individuale, del presidente Trump, che però ha spesso espresso nel campo dei vaccini, nel campo della valutazione scientifica, che secondo lui le cose stanno così e così devono essere. Massimo, buongiorno. Massimo. La sto ascoltando. A parte che credo siamo tutti d'accordo sull'enormità comunque di questa... No, io mi meraviglio su una cosa, Massimo, che non ci siano reazioni, che nessuno risponda. Infatti, anche... mi sembra un po' strano, comunque. Io invece, diciamo, al contrario, diversamente dall'ascoltatrice precedente, io invece partecipo comunque al suo sondaggio e direi che siamo obbligati a dire la prima, è un obbligo, non ci sono altre soluzioni. Allora entriamo nell'anarchia totale, certo. Oddio, perché? La scelta individuale potrebbe essere anche quella di seguire l'evidenza scientifica, una scelta, io dico, mi fido dell'evidenza scientifica. Sì, però le altre tre opzioni, Dio e le terapie, insomma, i sistemi naturalistici, e poi mi pare l'altra era... L'opinione di quello che pensano la maggior parte dei cittadini. La maggior parte impone comunque sia nelle scelte, alla fine una costrizione verso chi non ha quell'idea. Allora però, dato che parliamo di sanità... A questo punto io penso che sia obbligatoria la prima scelta, le altre neanche le prendo in considerazione. Quindi vedo anche una motivazione. Sì, questa è la mia motivazione. Sì, la prima scelta, tenendosi come riserva che la sua scelta potrebbe essere anche quella di seguire il criterio di dare la preferenza all'evidenza scientifica. Velocissimo, Mattia. Mattia. Allora, buongiorno, sono sì. Mattia e la mia opinione è semplicissima, non è né la prima né la seconda, in quanto... Reputo che uno scienziato, un uomo di scienza, non possa essere limitato da un presidente o da chiunque lo rappresente, ma semplicemente debba essere libero, quindi uno scienziato, e uno scienziato deve essere libero di dare la propria opinione, quindi senza alcuna limitazione, e ne consegue che le persone devono... Beh, comunque leggo già dalla scheda, proponeva una quinta opzione, quella degli esperti. Non so, lo scienziato è libero, ma è sottoposto comunque al giudizio della sua comunità, no, Giuseppe Neri? Assolutamente. È la comunità scientifica che pone a lui la griglia di analisi e di verifica di quello che fa. Libero sì, ma non è lo scienziato pazzo, dice quello che vuole. C'è altri scienziati che fra di loro sono collegati, che si controllano a vicenda, dicono quello che è evidente, da proprio di evidenza. La credibilità deriva proprio dalla sistematica sottomissione di un'opinione a una griglia di valutazione terza di altri esperti che la approvano, la criticano, la condividono. Questo è il criterio fondamentale, la non autoreferenzialità. Infatti molti mi stanno scrivendo: gli scienziati sono i nuovi preti, impongono, non hanno umiltà. Non è che non hanno umiltà, gli scienziati a loro volta sono sottoposti da un macigno sulla testa, che sono gli altri scienziati che controllano e verificano il loro lavoro. Ci fermiamo un istante. Melog. Prepariamoci anche noi italiani a cancellare l'autoritario concetto basato sulla scienza e sostituirlo secondo i nostri standard e desideri. Chiamate all'800 24 00 24 e diteci cosa suggerite al posto di basato sulla scienza. 1. Basato sul diritto di scelta individuale. 2. Basato sull'opinione della maggioranza dei cittadini. 3. Basato sulla parola di Dio. 4. Basato sui rimedi naturali. 800 24 00 24, vi do qualche assaggio di quello che è il risultato del nostro test. La maggior parte delle persone che chiamano, chiamano a favore della scelta più saggia, più ovvia, più in linea con la coscienza della contemporaneità, che è quella di dare fiducia alla scienza. Però in questo momento noi vogliamo sapere la parte dissidente, quella che dovrebbe trovare dei desideri, degli standard che permettono una scelta differente. Rodolfo, buongiorno. Sì. Pronto? Rodolfo, sì. Pronto, buongiorno. Sì. Senta, io pensavo questo. Innanzitutto io lascerei, farei un'opzione ulteriore, l'opzione zero. Cioè lasciare basato sulla scienza, perché sono anni che ci sviluppiamo e lo sviluppo scientifico è quello che ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi. Inutile che un presidente degli Stati Uniti, pure autorevole, possa pensare di creare lui un pensiero scientifico che non può fare, non è il suo ruolo. Io questa opzione la pensavo già inclusa nel basato sul diritto di scelta individuale. Questa mattina, se dovessi statisticamente riportare il risultato di quello che il nostro pubblico, che mi conforta, è individualmente scelgono di dare fiducia alla scienza. Quindi lei è d'accordo con la maggior parte dei nostri ascoltatori. Marco, buongiorno. Sì, pronto? L'ascolto. Sì, buongiorno. La 1 tutta la vita, ma la 1 ha un problema intrinseco, sì, che presupporrebbe la stessa cultura, lo stesso approccio, la stessa visione della vita da parte dell'individuo, cosa che purtroppo non è. E quindi la mia impressione è quella che si possa dare adito a millantatori e a tantissime cose che non hanno nulla a che fare con la scienza. Tutto lì, però senz'altro la 1. La 1, scelta individuale, sì. Sarebbe una 1 che è virata un po' sulla 2, basato sull'opinione della maggioranza dei cittadini, perché se affidiamo a un principio di desiderio della comunità, decide in termini numerici Giuseppe Neri. Sì, se dovessero decidere la comunità, come dice lui, i desideri della comunità, gli standard della comunità, dipende quale comunità. Dipende come è manipolata poi la comunità, perché voglio dire, in certi contesti con i mezzi di comunicazione di massa, sia quelli attuali sia quelli tradizionali, voglio dire, la casalinga di Voghera e il pastore Lucano potrebbero essere portati, indotti a pensare a delle cose che con l'evidenza scientifica hanno ben poco a che spartire. Questo dimostra quanto la fantalettura scientifica, terapeutica, clinica che passa attraverso la rete influenzi moltissimo. Non abbiamo mai avuto un movimento così veemente, così fortemente reattivo nei confronti delle istituzioni come quello degli antivaccinisti, basato su una sorta di nuova legge del sangue, di uccidere i nostri figli, figure di bambini infilzati, uccisi, ammazzati, qualcosa di fortemente di pancia. Sì, ma io la mia sensibilità è che mutatis mutandis è la stessa gente che un anno o due anni fa andava in giro appresso a Vannoni a raccontare che con le cellule staminali avrebbe curato tutto. Quindi è il terreno di cultura, è il brodo di cultura di questo tipo di fenomeni, è proprio la modalità con cui si attinge. Molti ascoltatori dicevano attingo alla rete, ma la regola fondamentale della rete, almeno in campo scientifico, è che rubbish in, rubbish out, cioè tu ci metti dentro spazzatura e ne tiri fuori spazzatura se non hai criteri e metodi per fare una cernita, una selezione e una valutazione accurata dei dati che attingi. Margherita, buongiorno. Buongiorno. Allora, io lei ha chiesto un suggerimento per l'affermazione basato sulla scienza. Un punto di vista. Sì, appunto, un punto di vista. E il mio è questo. Io direi basato sulla scienza allo stato attuale della conoscenza, perché l'atomo per molto tempo è stato considerato indivisibile dalla scienza. Atemno significa indivisibile, invece l'atomo è estremamente divisibile. La scienza ci ha detto che la Terra era piatta e il Sole girava intorno alla Terra. Allo stato attuale della conoscenza sappiamo che non è così. La scienza suggeriva di fasciare i bambini come salami fino a 6 o 7 mesi. Allo stato attuale la scienza ci dice che non è opportuno. È molto chiaro, Margherita, fermo un attimo. Giuseppe Neri, sì. Perfetto, tanto è vero che il testo fondamentale su cui generazioni di medici si sono formati, che era l'Harrison, cominciamo con queste parole. Medicine is a never changing science. La medicina è una scienza in continuo cambiamento e lo strumento di aggiornamento dei medici in tutto il mondo più condiviso si chiama up to date, vuol dire fino a questo momento, che è proprio il criterio dell'aggiornamento continuo. Quello che ci suggerisce Margherita è la risposta più esatta, perché dice gli scienziati è la nuova categoria dei preti. No, non c'è nessun dogmatismo. Si dovrebbero mettere, si mettono, nella migliore delle ipotesi, sempre in discussione. Francesco. Eccomi. La sto ascoltando. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Peppe Neri, professore che io conosco da tanto. È un medico anche lei, Francesco? Io ho passato la vita a fare il neurochirurgo. Neurochirurgo. Quindi cosa ne pensa di questa opzione Trump? Io penso che ovviamente sono d'accordo con le versioni scientifiche, vista la mia posizione, ma quello che io temo è che questa opzione possa essere orientata verso la completa distruzione di qualunque tipo di sistema di assistenza universale. Nel momento in cui noi dovessimo decidere malauguratamente che ciascuno si inventa e si costruisce il suo meccanismo di assistenza, la cosa più probabile è che non ce ne sarà più nessuna per tutti, ma ciascuno farà a modo suo con le sue possibilità. E quindi non ci sarà più un orientamento universale finalizzato al sostegno e alla protezione secondo l'updating della scienza. Quindi lei, Francesco, se non sbaglio, ci suggerisce non date le letture troppo metafisiche e ideologiche a questo. È semplicemente dire non cacciamo più una lira per le persone che secondo noi non hanno bisogno, non meritano di essere salvate, ecco, detta in parole molto crudeli. No, non ho capito, ma mi sembra di aver intuito qualcosa che non condivido per niente. Si ripete. Penso... secondo lei non ci sono dei contenuti filosofici e metafisici, tanto il desiderio di tagliare quella che è l'assistenza generale? Tanto il desiderio di identificare in una scelta populista, se volete, non scientifica, distruggendo la credibilità dell'opzione scientifica, tutto il concetto di assistenza universale, che è l'assistenza reciproca, è l'assistenza sulla base di un fondamento che abbia una condivisibilità. 10 secondi, Peppe Neri, sei d'accordo con il tuo collega? È perfettamente in linea con la scelta di Trump di destrutturare e cancellare quel tentativo della Obamacare, certamente. Ci fermiamo qua, mi sembra che oggi abbiamo dato un'idea di quello che comunque ci conforta il pubblico, il parere del pubblico della radio a quest'ora, come sempre, ogni giorno. Alla prossima.